Capitolo 44, 24 ottobre. Grazie al cielo, sono in salvo e sono libera. Ci alzammo prestissimo e ci vestimmo velocemente in silenzio. Poi, con molte attenzioni, scendemmo di sotto, dove Benson ci stava aspettando con una luce per aprirci la porta e richiuderla dietro di noi. Avevamo per forza dovuto coinvolgere un uomo per la questione dei bagagli e altro. Tutta la servitù conosceva bene il padrone e il modo in cui si era comportato, e sarebbero stati tutti ben contenti di servirci. Ma lui era il più serio e anziano, oltre che un ottimo amico per Rachel, e ho quindi insistito perché scegliesse lui come assistente e confidente. Voglio sperare che non si metta nei guai per questa faccenda, e vorrei poterlo ripagare per il pericolo che è stato disposto a correre. Gli misi in mano due guinee per il disturbo, prima di lasciarlo sulla porta e illuminarci la strada con una candela in mano. Le lacrime nei suoi sinceri occhi grigi e nell'espressione grave del suo volto l'augurio che andasse tutto per il meglio. Purtroppo non potevo dargli di più, quel che avevo ci sarebbe bastato appena per coprire le spese di viaggio. Che felicità chiudermi il cancello alle spalle e uscire dal parco! Mi fermai un istante per respirare quell'aria fresca e rinvigorente e guardare un'ultima volta la casa. Era tutto buio. Alle finestre non c'erano luci. Nessun filo di fumo copriva le stelle che splendevano alte nel cielo. Congedandomi per sempre da quel luogo, teatro di tanti errori e di tanta infelicità, fui contenta di non averlo fatto prima, poiché solo allora sarei stata certa di farlo, libera da qualsiasi dubbio sull'effettiva opportunità di quella risoluzione. Non rimpiangevo l'uomo che stavo lasciando, e nessuna ombra offuscava la mia gioia, se non il timore di essere scoperta, ma ci stavamo allontanando da quel rischio un passo dietro l'altro. Avevamo già messo molte miglia di distanza tra noi e Grassdale quando il disco rosso del sole salì nel cielo a festeggiare la nostra liberazione. E se anche qualcuno ci avesse visto ballonzolare lassù sulla carrozza, a quel punto dubito che avrebbe saputo indovinare chi fossimo. Voglio che mi credano una vedova, e per questo ho ritenuto opportuno entrare nella nuova casa, vestita a lutto. Indossavo un abito semplice in seta nera e una mantella con un velo nero che mi ero premurata di tenere calato sul viso per le prime 20 o 30 miglia di viaggio, e una cuffietta nera che avevo preso in prestito da Rachel non avendone una mia, e non all'ultimo grido, ma sarebbe servita allo scopo. Arthur era vestito con gli indumenti più modesti che aveva ed era avvolto in uno scialle di lana grezza, mentre Rachel portava una mantella grigia un po' logora con il cappuccio che le dava l'aspetto di una vecchia rispettabile invece che di una cameriera. Come mi piaceva starmene seduta lassù in alto a godermi l'aria fresca del mattino sul viso, mentre procedevamo tranquilli sulla strada ampia e assolata di una campagna nuova, gioiosa, raggiante e fulgida nella luce gialla dei primi raggi di sole, con il mio adorato bambino in braccio, felice quasi quanto me, e la mia fedele amica a fianco. La prigione e l'infelicità alle nostre spalle e sempre più lontane a ogni nuovo scalpitio di zoccoli dei cavalli. E davanti a noi, solo speranza e libertà. Avrei potuto lodare il divino a voce alta o stupire i miei compagni di viaggio abbandonandomi a uno scoppio di risa. Il viaggio fu molto lungo e alla fine eravamo tutti esausti. Raggiungemmo la destinazione che era notte fonda e ancora mancavano 6 miglia alla nostra meta finale. Non trovammo mezzi di trasporto né carri né carrozze, eccetto un carro comune che comunque trovammo con difficoltà dal momento che in città dormivano tutti. Quella parte di viaggio fu la peggiore. Stanchi e infreddoliti come eravamo, seduti sui nostri bagagli e sballottati sulle strade malmesse e ripide. Arthur dormiva in braccio a Rachel e insieme riuscimmo a proteggerlo dal freddo della notte. Poco dopo ci inerpicammo lungo un sentiero sassoso che Rachel mi disse di ricordare benissimo. L'aveva percorso molte volte con me in braccio, ma mai avrebbe pensato di tornarci a distanza di così tanti anni e in simili condizioni. Con tutte le frenate e le buche, Arthur si era svegliato e quindi scendemmo e proseguimmo a piedi per la poca strada che ancora mancava. E se Frederick non avesse ricevuto la lettera, Se non avesse preparato le stanze e le avessimo trovate umide, buie, senza luce, senza fuoco né cibo dopo quella gran fatica. Alla fine ci trovammo davanti il grande e lugubre edificio e seguimmo il viale fino all'ingresso sul retro. Restammo ansimanti nel cortile a guardarci attorno. Era tutto buio e desolato? No, si vedeva un debole chiarore rosso che ci salutava dall'unica finestra con i vetri ancora in buono stato. Trovammo la porta chiusa, ma dopo qualche colpo venne ad aprirci un'anziana signora che era stata incaricata di arieggiare la casa e attendere il nostro arrivo. Ci introdusse in una piccola stanza che una volta era stata la dispensa e che Frederick aveva ora attrezzato per trasformarla in una confortevole cucina. Ci consegnò un lume e si mise a scaldarci qualcosa da mangiare perché ci riprendessimo dal viaggio, mentre noi ci cambiavamo e giravamo per le stanze della nostra nuova casa. C'erano due camere da letto, un salotto grande e uno più piccolo, che stabilii subito sarebbe stato il mio studio. Gli spazi erano in ordine, sebbene solo in parte arredati e con mobili vecchi, soprattutto in legno di rovere scuro, gli stessi che c'erano un tempo e che Frederica aveva conservato come pezzi di antiquariato in casa sua, salvo poi riportarli qui per venire incontro alle nostre necessità. La signora servì la cena a me e a Arthur in salotto, riferendoci che il suo padrone mandava i suoi omaggi alla signora Graham, dicendo che aveva preparato le stanze al meglio, considerando il preavviso così breve, e che si sarebbe fatto vivo l'indomani per discutere di persona altri dettagli. Salii con gioia le grandi scale in pietra fino alla mia stanza, per sdraiarmi su quel letto antico e scuro accanto al mio bambino, che si addormentò immediatamente. Io, invece, pur stanchissima, ero talmente agitata dai pensieri e dai sentimenti che non riuscii a dormire finché l'alba non cominciò a lottare con la notte. Ad ogni modo, fu un sonno profondo salutato da un dolcissimo risveglio. Fu lo stesso Arthur a svegliarmi con i suoi teneri baci. Era lì con me, quindi, sano e salvo e lontanissimo finalmente da suo padre. La stanza era illuminata a giorno perché il sole era già alto, anche se oscurato dalle nebbie autunnali. A dire il vero, non si trattava di una visione allegra, né dentro né fuori. La stanza era grande e spoglia, eccetto che per quei vecchi mobili scuri. Le finestre erano strette, affacciate su un cielo grigio in alto e la desolazione in basso. La presenza di un muretto di pietra e di un cancello, l'erbaccia rigogliosa e gli alti sempreverdi erano le uniche vestigia di quello che un tempo era stato un giardino. Anche i campi che si vedevano in lontananza, così brulli e incolti, in un altro momento mi avrebbero angosciata. Ma in quel momento tutto era illuminato dal riflesso della mia gioia e della mia speranza, mista al ricordo confuso di un lontano passato e a una grande fiducia nel futuro. Sicuramente avrei preferito, per la mia sicurezza, che tra la mia residenza passata e quella presente ci fosse in mezzo il mare, ma sarei riuscita a non dare nell'occhio e Frederick, mio fratello, avrebbe alleggerito un po' la mia solitudine venendomi a trovare di tanto in tanto. Quella mattina venne, infine, e da allora ho avuto modo di vederlo anche diverse altre volte. Deve fare attenzione però a non farsi scoprire, nemmeno la sua servitù deve sapere delle sue visite a Wildfell Hall, se non nelle occasioni in cui si reputa normale che un padrone di casa incontri il suo affittuario, per evitare che si generino sospetti su di me, veritieri o calunniosi. Sono arrivata già da 2 settimane e, a parte l'ansia costante che provo di venire scoperta, mi sono adattata bene alla nuova casa. Frederick è riuscito a procurarmi i mobili che gli avevo chiesto e il necessario per dipingere. Rachel si è recata in una città vicina e ha venduto tutti i miei abiti per comprarne altri più consoni alla mia situazione. In salotto ho un pianoforte usato e uno scaffale già ben fornito. Nell'altra stanza è quasi tutto pronto e a guardarla ha proprio l'aria di essere un posto serio e professionale. Sto dandomi parecchio da fare per ripagare mio fratello di quanto ha fatto per me. Non ce n'è davvero bisogno, ma lo faccio per me stessa. Lavorare, guadagnare, accontentarsi di una vita semplice mi daranno molta più soddisfazione se avrò la consapevolezza che sono in grado di mantenermi da sola e che nessuno sta soffrendo per la mia follia, almeno non da un punto di vista finanziario. Farò in modo che accetti fino all'ultima moneta che gli avevo detto. Ho già alcuni quadri pronti che Rachel ha portato qui. Le avevo detto infatti di portare via tutto ciò che avevo e lei mi ha preso alla lettera, tanto che mi sono ritrovata persino un ritratto di Huntington che avevo dipinto il primo anno di matrimonio. Tirandolo fuori dalla scatola, per un momento ho sussultato nel vedere quello sguardo acceso di malizia fissarmi dalla tela, come vantandosi ancora del potere che aveva su di me e beffeggiando il mio piano di fuga. Come erano stati diversi i miei sentimenti quando avevo fatto quel ritratto, rispetto a quelli che provavo guardandolo a distanza di anni, e quanto avevo studiato e provato per arrivare a produrre qualcosa che fosse ai miei occhi degno dell'originale. E che misto di soddisfazione e delusione mi avevano procurato le mie fatiche. Soddisfazione di aver colto tanta somiglianza e delusione per non essere riuscita a renderlo abbastanza bello. Non vi rintraccio alcuna bellezza ora, eppure in quel quadro è molto più bello e affascinante, meno repellente, diciamo, di quel che è diventato col passare del tempo. Questi 6 anni, infatti, hanno cambiato il suo aspetto tanto profondamente quanto hanno cambiato i miei sentimenti per lui. La cornice è bella e ci starà bene un altro quadro. Il ritratto non l'ho distrutto alla fine, come avrei voluto in un primo momento. Non certo per indugiare su una forma di tenerezza nei confronti del mio amore passato, né per ricordare a me stessa quella follia. L'ho fatto soprattutto per poter paragonare il suo viso ai tratti che mio figlio assumerà con il passare degli anni e stabilire così quanto o quanto poco somiglia al padre, sempre che mi sia concesso di tenere il bambino con me e di non rivedere mai più quell'uomo in faccia. A quanto pare, Huntington sta facendo l'impossibile per scoprire dove sono andata. Si è recato personalmente a Stanningley, in parte per aver ragione dell'affronto subito e in parte perché pensava di trovarci lì. Ha raccontato molte bugie, tanto che lo zio si è lasciato ingannare e insiste perché torni da lui e opti per una riconciliazione, mentre la zia ha la situazione più chiara. È una donna assennata e conosce troppo bene la natura di mio marito e la mia per lasciarsi abbindolare dalle falsità. In ogni caso, pare che non rivoglia indietro me, ma il bambino. Ha fatto sapere ai miei amici che se desidero vivere lontana da lui, mi lascerà stare e mi corrisponderà anche una dignitosa integrazione economica, ma vuole il figlio per sé. Per carità, non venderai mai mio figlio in cambio dell'oro, neppure se quell'oro potesse salvarci entrambi dalla miseria, perché per lui sarebbe meglio morire che vivere con suo padre. Frederick mi ha fatto leggere una lettera di quel signore, talmente fredda e sfacciata che chiunque non lo conosce abbastanza si lascerebbe confondere le idee, alla quale, tuttavia, nessuno avrebbe saputo rispondere meglio di mio fratello. Non mi ha fatto leggere nei dettagli cosa gli ha scritto, ma so che non solo gli ha detto di non sapere dove mi trovo, ma anzi gli ha fatto presente che sarebbe stato inutile chiedere a lui o a qualsiasi altro mio parente per scoprirlo dal momento che gli pareva. Ero così disperata da voler tenere nascosto il mio rifugio persino ai miei migliori amici. Aveva aggiunto che se mai un giorno l'avesse infine saputo, di sicuro sarebbe stata l'ultima persona a cui l'avrebbe rivelato e di finirla di avanzare proposte per avere indietro il bambino, dato che lui, Frederick, conosceva sua sorella abbastanza bene per sapere che, ovunque fosse, in qualsiasi condizione stesse vivendo in quel momento, nulla, mai, l'avrebbe persuasa a rinunciare a suo figlio. 30 ottobre. Ahimè, i vicini non mi danno tregua. Sono riusciti a snidarmi e mi sono dovuta sorbire la visita di ben 3 famiglie determinate a scoprire chi sono, da dove vengo e perché sono venuta a vivere in una casa del genere. Non mi piace la loro compagnia e tutta questa curiosità mi infastidisce e mi angoscia, perché se la soddisfo rischio di mettere mio figlio in pericolo. Se invece rimango troppo misteriosa non farò che insospettirli di più, stimolandoli a fare nuove ipotesi e indagini e a spargere la voce di parrocchia in parrocchia e magari fino alle orecchie del signore di Grassdale Manor. Di sicuro danno per scontato che ricambi le loro visite, ma se ce n'è qualcuno che vive troppo distante da qui perché Arthur possa arrivarci a piedi, dovrà aspettare. Non voglio lasciarlo, se non per andare in chiesa, cosa che non ho ancora fatto, perché sono terrorizzata che possano portarmelo via mentre non ci sono. Che sciocca. E non mi sento serena quando non è accanto a me. Ho paura che questa angoscia turberebbe la mia devozione al punto che finirei per non trarne alcun beneficio. Domenica prossima, però, farò un tentativo e lo lascerò con Rachel qualche ora. Certo, mi costerà, ma almeno non sarà un'imprudenza. Il parroco è già venuto a rimproverarmi per non essere andata a compiere i miei doveri religiosi. Non avendo scuse valide da offrirgli, gli ho assicurato che la domenica dopo mi avrebbe vista seduta al mio posto. Non voglio che pensino che sono un infedele. E inoltre, sono certa che mi farà bene partecipare alle funzioni se solo riuscissi ad arginare i miei pensieri, a fare in modo che non si fissino sempre sul mio bambino, sul fatto che non è con me e sul terrore di non trovarlo più quando ritorno a casa. Sono sicura, comunque, che la misericordia di Dio mi eviterà un dolore tanto atroce e che per il bene del mio piccolo, non tanto per il mio, non lascerà che me lo portino via. 3 novembre. Ho conosciuto dei nuovi vicini. L'affascinante signore Don Giovanni del paese, a detta sua, è un giovane. E finiva così. Il resto era strappato, proprio quando iniziava a scrivere di me. Una vera crudeltà. Sicuramente, infatti, era il tuo umile servo quello di cui stava per cominciare a parlare, e senz'altro in termini non favorevoli da quel che potevo intuire. L'ho dedotto da quelle poche parole e dal ricordo che avevo del modo in cui si era comportata con me all'inizio della nostra amicizia. Ebbene, potevo certo perdonarle i suoi pregiudizi nei miei confronti e quella severità sugli uomini in generale, considerando quali erano stati i suoi esempi fino a quel momento. Si era comunque ravveduta nei miei riguardi già da tempo e forse, anzi, era caduta nell'errore contrario. Se inizialmente mi aveva giudicato peggiore di quanto fossi, sentivo che al momento le mie virtù erano molto inferiori all'opinione che aveva di me. E se le prime pagine di questa seconda parte del suo diario le aveva strappate per non ferire i miei sentimenti, le successive le aveva strappate di certo per non incoraggiare la mia vanità. Tuttavia, mi sarebbe piaciuto poterlo leggere tutto, per vedere come erano cresciute la sua stima per me e la sua amicizia, o qualsiasi altro sentimento più caldo, per scoprire quanto amore provasse e quanto spazio questo amore si fosse preso dentro di lei, malgrado la sua determinazione e gli sforzi per non. Ma in fondo no, non avrei potuto leggerlo. Invece era qualcosa di troppo sacro per occhi che non fossero i suoi, ed era giusto che me l'avesse tenuto nascosto.